La Germania vola a Vienna, ma gli applausi vanno tutti alla Turchia dell'imperatore Terim, che porta una squadra coraggiosa e decimata da squalifiche e infortuni a un passo dall'ultimo atto europeo. Ti aspetti la passeggiata teutonica, ma a sorprendere è l'inizio sprint degli uomini della mezzaluna. Traversa di Kazim, che poi ne colpisce anche un'altra, ma sul rimpallo Boral fa l'1-0. Il gol scuote i tedeschi, che al 25esimo trovano il pari con un tocco di Schweinsteiger. Si lotta su ogni pallone anche nella ripresa, poi a 10 minuti dalla fine un'uscita a vuoto di Rustu permette a Klose di insaccare il 2-1. Sarebbe fatta se di fronte non ci fossero i turchi e in porta tra i tedeschi un imbarazzante Lehmann. Come contro la Croazia allora è ancora Senturk a infilare il 2-2 dell'ennesima rimonta. Mancano 4 minuti alla fine, ma bastano pochi istanti a Lahm per scambiare con Hitzlsperger e battere ancora Rustu per il definitivo 3-2 che regala alla Germania la finale, alla Turchia una serata eroica e sfortunata. Dario Ricci, GR24, Il Sole 24 Ore.